Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Più o meno a un anno di distanza torniamo a fare il punto su un settore, quello del noleggio veicoli, all'indomani del 15° rapporto annuale della NIASA, che è l'associazione di categoria che appunto raccoglie gli operatori dell'autonoleggio, del leasing e del car sharing. Il motivo per cui questo settore interessa una trasmissione che si occupa di innovazione è tutto sommato contenuto nell'ultima delle categorie che ho appena citato, quella del car sharing. Più in generale, però, i dati della NIASA danno conto di un importante processo di trasformazione culturale, quello che vede nell'automobile non più un oggetto da possedere, in qualche caso direi anche da ostentare, ma un servizio di mobilità di cui servirsi al pari direi di tutti gli altri. Diamo il benvenuto, diamo anzi il bentornato a Pietro Teofilato, che è direttore della NIASA. Buonasera. Buonasera radioascoltatori, buonasera Melis, grazie dell'attenzione. Dunque Teofilato, partiamo dai numeri del 2015 sull'autonoleggio, i più importanti, e qual è il dato più significativo del 2015? Primo aspetto è che nell'ambito dell'automotive il settore del noleggio continua ad avere tutti i segni più. È cresciuto il fatturato, è arrivato a 5,5 miliardi, sono cresciute le flotte gestite, 730.000 unità tra auto e veicoli commerciali, sono cresciute le immatricolazioni, sono arrivate a 317.000 unità, che vuol dire il 20% del mercato nazionale. Praticamente nel 2015 un'auto su 5 è stata acquistata ad uso noleggio. È stata messa in questo circuito. Perfetto. E nel 2016 voi avete insomma i primi dati, il trend è sempre quello? Sì, è particolarmente positivo sia per quanto riguarda il breve termine e quindi per le esigenze di turismo, ma anche collegate al business, sia per il lungo termine. Si sta ampliando notevolmente la flotta, la clientela, stiamo parlando di 65.000 aziende di ogni dimensione che utilizzano giornalmente il noleggio, 2.700 pubbliche amministrazioni, quindi diciamo un panorama di clientela particolarmente variegato. Ecco, in particolare proprio questo noleggio a lungo termine è esploso più 300% negli ultimi 3 anni, e parliamo di noleggio a lungo termine dedicato ai privati addirittura, e questo è un segno molto significativo di come cambia l'idea di automobile, no? Di possederla piuttosto che no. È vero, è un dato che ci ha sorpreso. Sapevamo che le aziende del settore stavano investendo sul tema, ma mai avremmo immaginato questo tipo di risultato. Si tratta oggi di qualcosa come 10-12.000 contratti, 10.000 da quelli targati fino al 2015, ma continuano in questi mesi per esigenze di noleggio da parte di privati. Parliamo di privati come noi, senza partita IVA, che per esigenze di varie, che possono essere quelle di spostamento per lavoro, mille ragioni diverse, hanno bisogno per un periodo, sanno che gli servirà per magari 2 anni la macchina, per 10 mesi, ma magari non di più, e ragionano in questi termini. Allora, andiamo avanti, facciamo un focus sui numeri del car sharing, sui quali chiedo qualche dettaglio in più. Bene, oggi ci sono una decina di città che hanno servizi di car sharing, parliamo di 650.000 abbonati che si sono quindi accreditati per questo tipo di servizi, si tratta di una flotta che via via è aumentata quasi 5.000 unità, per un totale di 11 milioni di chilometri percorsi nel 2015, con una durata media del video del car sharing di 24 minuti e un costo medio di 7 euro. E qui insomma la fanno da padroni Milano, prima di tutto con più di 300.000 abbonati, giusto? Sì. Poi viene Roma con più di 200.000 abbonati, insomma sono numeri importanti per le popolazioni diciamo di queste città. E proprio sul car sharing, qui voi sottolineate nel vostro rapporto il fatto che però manca una normativa adeguata. Che cosa vuol dire? Manca una normativa a livello nazionale. Oggi tutto è regolamentato in base a delibere comunali. Milano è stata la capofila della migliore regolamentazione. Seguono poi dopo Roma e anche altre città come Torino, Verona, Firenze, Bari, prossimamente Napoli. Quello che però ha esigenza il settore è di una normativa nazionale equilibratrice di vari aspetti, affinché diciamo, tutte le amministrazioni e quindi gli operatori possano far riferimento per una operatività chiara. Certa. Perfetto, insomma serve togliere complicazioni, il semplice fatto che ci siano regole diverse da città a città o regione a regione, chiaramente per un operatore una complicazione che francamente appare anche abbastanza inutile. Dunque, sempre dentro nel vostro rapporto compare a un certo punto una definizione che mi ha colpito, voi parlate di mobi noleggio, che cosa vuol dire mobi noleggio? Nel mobi noleggio l'oggetto dell'offerta non è più solamente l'auto, ma è la mobilità nel suo complesso. Okay. In pratica le imprese di noleggio garantiscono i servizi per davvero 360 gradi. Faccio un esempio banale della vita di ogni giorno: ho necessità di un'auto o di un veicolo per raggiungere l'ufficio e conseguentemente nel fine settimana ho necessità di un'auto per stare con la famiglia per andarmene a fare il weekend fuori, insomma, no? Sì. Quindi potrei avere un mezzo a disposizione la mattina per questi spostamenti, andate e ritorno dal lavoro, può essere un mezzo completamente diverso quello su cui voglio fare affidamento per fare il weekend con la famiglia. È un po' questo il punto. Chiaro, insomma, una offerta ad una domanda estremamente diversificata, estremamente particolareggiata. Ovviamente il web e lo smartphone la faranno da padroni per indicare le soluzioni migliori. Va bene, grazie Pietro Teofilatto. A voi e buon noleggio a tutti. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani.